Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Storico rocker puro sangue, senza peli sulla lingua, esce con un nuovo album, Dog Eat Dog. Il primo singolo, Don't Waste Your Time, non sprecare il tuo tempo. Pino Scotto. Questo testo nasce dal fatto che io in poche parole ho fatto una cinquantina d'anni di eccessi e eccessi vari, diciamo, in poche parole. L'ultima cosa che faccio è lamentarmi, figurati. Più di un anno fa sono andato a fare questa lastra, sul referto c'era scritto massa sui polmoni. Tu pensa, mio papà è morto di tumore ai polmoni, mio nonno è morto di tumore ai polmoni, ho passato una notte d'inferno. Il giorno dopo sono andato a fare un attack, mi ha mandato a fare un attack, non si era mica sbagliato. E da lì è nato questo testo, in poche parole, no? Da questa esperienza brutta, chiamiamola così. E tu lo dici che hai ancora miglia da correre, parole da mantenere, sì, ci sono un sacco di cose da fare ancora. È stata un po' la mia ricerca di redenzione da tutti i miei eccessi, i miei sbagli, però il mio lato positivo vince sempre, proprio, come vedi, no? È sempre stata la filosofia della mia vita, insomma. Don't waste your time, don't waste your life. You only have just here and now. Stand by and wait, let me do it to make the world go tell me why you forgetting me. My body's shaking, my heart to bleed. You make it helpless every time somebody dies. There ain't no words left when another chance applies. Don't waste your time, don't waste your life. You only have just here and now. So let them heal, you have no fear. Quanto abbiamo bisogno di rock adesso, in questo momento storico? Guarda, purtroppo ne abbiamo più bisogno degli anni 70 addirittura, però purtroppo di rock è rimasto pochissimo. Poi specialmente in Italia, da quando sono arrivati i reality, quelle robe lì che hanno ucciso proprio la musica, l'hanno assassinata la musica proprio. Poi siamo arrivati al top del nulla, che è la trap, no? Basta. Secondo me più in basso di così non si può andare. E invece in questo momento ci sarebbe bisogno di messaggi positivi e di una musica che ti faccia piangere, una musica che ti faccia ridere, una musica che faccia riflettere, con dei testi che facciano riflettere, in poche parole. Pino, tu come stai vivendo questi giorni? Guarda, fortunatamente ho l'album in promozione, allora mi tiene occupato, però una persona come me è come vedere un leone in gabbia proprio. Poi tu sai che è un progetto in Guatemala per i bambini, dove abbiamo fatto un ospedale che continuiamo a seguire, e sono occupato, diciamo. E chiuso in casa tante cose non le puoi fare, e mi sento un po' come un leone in gabbia. E poi hai bisogno del pubblico, ragazzi. E poi mi manca, io dovevo partire il 17 di aprile da Piacenza a Genova, 17-18, però purtroppo, vabbè, fa niente, l'importante è che risolviamo, l'importante è che il paese risolva questa tragedia, poi ci sarà tempo per tutto, insomma. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Pino Scotto. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.